scalera infame su cui ratta la morte miete per lenta fame. Magri smonti schiavi stretti in ferro catene, torce sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso un funereo velo, dorme di schiavi adusti gemer sul remo, spezziam queste catene, chini a remar vorremo. Cos'è gementi schiaccia questo remar remare, meglio morir fra i flutti sul biancheggiar del mare. Splash, splish, si schianti sui frangenti, splush, alte le rosse nere, al sibilar dei venti. Pensa pietosa colpisce l'onda spumosa e ria, ma sorta un dì sui mari, il sol dell'anarchia. Tu schiavi allarmi, allarmi, l'onda gorgoglia e sale, tuoni maleni e fulmini sul galeo fatale. Su schiavi allarmi, allarmi, pugnam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte.